Prima edizione. L'informazione del mattino. Sono le 5:59 minuti, una buona giornata da Simone Spezia, è venerdì 22 giugno, questa mattina a prima edizione, l'appuntamento con l'informazione del mattino di Radio 24. Ascolteremo un'intervista al ministro dell'Ambiente Clini dal vertice Rio più 20 per fare il punto sui lavori e capire qual è il documento finale al quale si sta approdando, e poi naturalmente faremo il punto sulla questione europea. Oggi è il giorno del vertice di Roma, Hollande, Merkel, Monti naturalmente e Rajoy, e ci sono molti dettagli. Prima di tutto il giornale radio. Sono le 6. GR 24, il sole 24 ore. Crisi europea, Monti preme su Merkel, oggi a Roma il vertice a 4 con Hollande e Rajoy. La trattativa Stato-mafia, Napolitano sul Quirinale, campagna di insinuazioni. Afghanistan, assalto ai talebani ad un albergo di Kabul, ci sono vittime. Calcio Euro 2012, Portogallo in semifinale, NBA vittoria finale a Miami. Una buona giornata dunque da Simone Spezia e dalla redazione. Ieri sera la riunione dei ministri finanziari dell'Eurozona, che a quanto pare si sono spaccati sulla revisione delle condizioni per gli aiuti alla Grecia, mentre oggi c'è l'atteso vertice a Roma con Monti, Merkel, Hollande e Rajoy. Il presidente del Consiglio sta premendo sulla cancelliera tedesca per ottenere che vada in porto la sua ipotesi, ossia di utilizzare il fondo salva stati IFSF come una sorta di scudo anti-spread, pronto a comprare titoli dei paesi che trovino difficoltà finanziarsi sul mercato o debbano farlo a tassi troppo alti. Pressioni che Monti starebbe esercitando, ponendo anche un problema di tenuta del governo e di rischi che salti la maggioranza senza risultati concreti dal vertice. Il 29 è in gioco l'Europa, dice il presidente del Consiglio in una serie di interviste ad alcuni giornali europei. Ne parleremo tra poco, naturalmente, nella nostra rassegna stampa. Arriva intanto, sempre notizia di ieri notte, la scure di Moody's sulle istituzioni finanziarie globali. L'agenzia ha rivisto il rating di 15 banche, tagliandolo per 10 istituti di due livelli, per 4 banche di un gradino e per un istituto di 3 gradini. L'agenzia ha basato il suo giudizio anche sulle principali banche americane: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup. Tra le italiane colpita solo BNL, ma come ripercussione del taglio del rating sulla controllante BNP Paribas. E siamo alla pubblicazione delle intercettazioni tra l'ex ministro Mancino e il consigliere del Quirinale D'Ambrosio, nelle quali Mancino sembra chiedere aiuto per ammorbidire l'inchiesta sulla trattativa tra Stato e mafia che lo vede indagato. Il presunto coinvolgimento del Colle e dello stesso capo dello Stato spingono quest'ultimo ad intervenire, così Giorgio Napolitano. Negli ultimi giorni si è alimentata una campagna di insinuazioni e sospetti nei confronti del Presidente della Repubblica e dei suoi collaboratori. Una campagna costruita sul nulla. Si sono riempite pagine di alcuni quotidiani con le conversazioni telefoniche intercettate in ordine alle indagini giudiziarie in corso sugli anni della più sanguinosa strage di mafia 1992-93, e se ne sono date interpretazioni arbitrarie e tendenziose e talvolta perfino versioni manipolate. Ma tutti coloro che sono intervenuti e stanno intervenendo, avendo seria conoscenza del diritto e delle leggi e dando una lettura obiettiva dei fatti, hanno ribadito l'assoluta correttezza del comportamento della Presidenza della Repubblica, ispirato soltanto a favorire la causa dell'accertamento della verità anche su quegli anni. Una forza speciale della polizia afghana ha liberato oggi 18 persone, per lo più turisti, che erano stati presi in ostaggio in nottata da un gruppo di kamikaze in un hotel dell'area di Kargah. Lo ha annunciato il capo della polizia della capitale, Ayub Salanji. Lo stesso responsabile ha precisato che nell'attacco degli insorti sono morte 3 guardie private dell'hotel e un agente di polizia. L'addio di DR Motor a Termini Imerese. Secondo il segretario della Wilm Palermo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto sapere ieri che l'impresa dell'ex pilota di Gran Turismo Massimo Di Risio non rileverà a Termini Imerese. In serata però DR Motor ha smentito la notizia. È più incerto che mai il futuro dello stabilimento di Termini Imerese. Nonostante le smentite di DR Motor, si rincorrono le voci della definitiva uscita del gruppo dal piano per rilevare lo stabilimento ex Fiat. Il Ministero per lo Sviluppo Economico starebbe sondando 17 case automobilistiche alla ricerca di nuovi partner. Per rendere più allettante la proposta, sul piatto c'è la promessa di un investimento di 350 milioni di euro in infrastrutture. Lo stabilimento doveva essere rilevato dalla DR Motor, ma il progetto è fallito poiché all'imprenditore molisano mancavano, secondo il segretario della Wilm di Palermo, tra i 15 e i 18 milioni di euro per completare l'investimento. Termini Imerese era stata chiusa dalla Fiat il 31 dicembre 2011. Sono più di 1.500 gli operai attualmente in cassa integrazione che speravano di poter ricominciare a lavorare nella nuova impresa. Tra 20 giorni dovrebbe esserci un incontro governo-parti sociali. Il Ministero informerà i sindacati sui risultati del primo giro di consultazioni con le case automobilistiche che potrebbero essere interessate a rilevare lo stabilimento. Davide Maria De Luca, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo allo sport, in chiusura, iniziando dall'NBA. Poco fa è arrivata la vittoria finale dei Miami Heat. In diretta da Miami, Carmelo Prestisimone. Buongiorno Carmelo. Sì, buongiorno, è festa grande qui all'American Airlines Arena, dove i Miami Heat conquistano il secondo anello NBA battendo 121-106 Oklahoma Thunder. Il primo anello c'è stato 6 anni fa, la squadra allenata da Pat Riley con Shaquille O'Neal, Gary Payton, Alonzo Mourning. Quella di oggi è di Eric Spoelstra, un coach tanto criticato ma che ha vinto. Soprattutto è la squadra di LeBron James, oggi 26 punti, MVP di queste finali, che ha parlato proprio poco fa qui nell'arena di Miami, autentico idolo qui in Florida con Wayne Wade. Ma è stata soprattutto la gara di Mike Miller, un'ala che arriva dalla panchina e fa 7 su 7 da 3 punti, partita che non ha mai avuto storia, equilibrio solo nel primo periodo, poi gli Heat nel secondo quarto stavano il gap andando sul più 17. C'è un ritorno di Oklahoma, poi le triple di Miller allontanano gli Heat, che vanno anche sul più 25 giocando un basket d'accademia puntato solo sullo spettacolo con stoppate e tanti alley-oop. È festa grande qui a Miami, nel downtown e a South Beach, con centinaia di italiani qui in vacanza che si sono fatti coinvolgere, si stanno facendo coinvolgere in questo grande party, nella grande movida che c'è qui in Florida, sulle coste della Florida. Da Miami è tutto, a te Simone. Grazie, grazie a Carmelo Prestisimone, e a questo punto naturalmente buon divertimento in chiusura agli europei di calcio nei quarti di finale. Euro 2012 ha avuto la meglio il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che va in semifinale. Ne parliamo tra un attimo nello speciale che adesso ci ascoltiamo, poi c'è Roberto Galullo con Sottotiro e ci ritroviamo subito dopo. Prima edizione, l'informazione del mattino. Prima della viabilità, in breve i mercati. L'indice Nikkei a Tokyo cede lo 0,32%, a Hong Kong il calo è di un 1,03% in questo momento, è piuttosto netto il calo dell'euro già da ieri sera, a dire il vero, a 1,2556 contro dollaro. Sentiamo cosa succede su strade e autostrade, tra l'altro nel giorno di oggi che dovrebbe prevedere lo sciopero del trasporto pubblico locale. Ci ritroviamo subito dopo per una breve rassegna stampa. Prima edizione. Sono le 6 e 19 minuti esatte. Di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. E dunque, vediamo di capire che cosa hanno i giornali oggi, che cosa propongono, che cosa tengono in primo piano. Naturalmente c'è ancora una volta e immancabile la crisi dell'euro che domina e ci si divide un po' tra questo e la reazione è molto dura del Quirinale. Abbiamo ascoltato poco fa le parole del Presidente della Repubblica sul tema della trattativa Stato-mafia e di queste intercettazioni che riguardano un consigliere del Quirinale che parla appunto con l'ex ministro Mancino. C'è questo e c'è anche qualcosa invece sulla sentenza della FIOM, c'è chi apre sulla sentenza che ha riguardato la Fiat e la FIOM, l'Unità, c'è un giudice a Pomigliano, la notizia è questa: la Fiat condannata per discriminazione dovrà assumere 145 operai FIOM. Questo per quanto riguarda l'Unità. Però vogliamo partire dalla crisi europea, perché il primo giornale da guardare oggi è senza dubbio La Stampa. Non per altro, ma perché ha un'intervista insieme a altri cinque grandi quotidiani europei con il Presidente del Consiglio Mario Monti, alla vigilia appunto del vertice di cui si diceva sopra, quello con Merkel, Hollande e Rajoy, ma con l'occhio rivolto naturalmente soprattutto al Consiglio europeo. Il titolo che sceglie La Stampa è: Monti, il 29 in gioco l'Europa. Non si può fallire, dobbiamo convincere i mercati che l'euro sarà indissolubile. E ancora, serve una piena unione bancaria e meccanismi per fare ponte con quei paesi che rispettano gli impegni ma scontano una certa diffidenza. Quindi qua si fa chiaramente riferimento alla sua proposta. Questa proposta a ponte sarebbe appunto che il Fondo Salva Stati entrasse sul mercato dei titoli di Stato per alleggerire gli interessi che si pagano sul debito. E ancora, in caso di fallimento gran parte del continente, in caso di fallimento del vertice naturalmente del 29 del Consiglio europeo, gran parte del continente avrebbe tassi molto alti e cittadini e parlamenti si rivolgerebbero contro una maggiore integrazione, E ancora all'interno, dato che poi tra chi l'ha intervistato c'era anche la Süddeutsche Zeitung, gli ha fatto una domanda, insomma, se potesse rivolgersi ai cittadini tedeschi, se si potesse rivolgersi a un ipotetico signor Rossi tedeschi, e usano quelli come domanda, quelli della Süddeutsche Zeitung, Herr Müller, gli chiedono che gli direbbe Herr Müller. Può fidarsi dell'Italia. Questa è l'intervista al Presidente del Consiglio Mario Monti affiancato tutto questo ad un editoriale del direttore Mario Calabresi che dice: si abbandoni la filosofia della lentezza. Sulla Stampa, centropagina, la trattativa Stato-mafia e l'ira di Napolitano. E un'intervista con Pier Ferdinando Casini che dice: ora basta col tiro al governo, che cerca di farlo cadere pagherà un conto salato. C'è in primo piano la sentenza su Fiat, anche qua, insomma, comunque in prima pagina, la Fiat assuma gli operai FIOM, la sentenza su Pomigliano. E poi questa è una vicenda che probabilmente farà discutere, questa cittadinanza negata al Dalai Lama da parte di Milano, il no di Milano al Dalai Lama, la marcia indietro di Pisapia sarebbe stata causata dalle minacce cinesi di un boicottaggio dell'Expo 2015, Dalai Lama che avrebbe dovuto ricevere appunto la cittadinanza milanese. Segnalo che molti quotidiani, come era prevedibile, poi ne parleremo anche nei nostri giornali radio, come ovvio ma inevitabile toccare il tema di Grecia-Germania, ossia il quarto di finale che ci sarà questa sera agli europei. Ebbene, sceglie la via poetica La Stampa: Goethe, Omero, una sfida all'ultimo euro, il poeta Krüger. La Grecia era il nostro paese preferito, è colpa dell'euro se non ci piacciono più. Lo scrittore Markkaris, li amavamo, greco, li amavamo nonostante i nazisti, ora siamo offesi come degli amanti traditi. Questo per quanto riguarda La Stampa. Dunque, visto che siamo sui temi economici, andiamo sul Sole 24 Ore, che in apertura il Fondo Monetario Internazionale, fondi europei per salvare le banche. Come si diceva, l'intervista non è solo alla Stampa, ma a una serie di giornali europei, e quindi ne riporta qualche stralcio il Sole 24 Ore, che cita proprio il passaggio sul signor Rossi tedesco. Monti, il signor Rossi tedesco, stia tranquillo, l'Italia non chiederà aiuti. C'è un commento di Adriana Cerretelli, un pezzo, anche una spiegazione se vogliamo. Salvare l'euro costa meno di un divorzio tra europei. E poi un commento di Sergio Fabbrini, economia e politica europea, nuovi assetti inevitabili. Anche qua, in primo piano la questione della trattativa tra Stato e mafia, e l'ira di Napolitano che dice basta sospetti e insinuazioni, un commento di Valerio Onida che parla di azione opportuna da parte del Colle. Interessante la questione delle dismissioni, ossia delle dismissioni del patrimonio pubblico. Dismissioni per 319 miliardi, dice il Sole 24 Ore. Nel frattempo sul DDL lavoro 4 fiducia, voto finale mercoledì 27. Ma cosa sono questi 319 miliardi? La fase 2 delle dismissioni pubbliche verso la Gazzetta Ufficiale, il decreto legge approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri, stimato fino a 319 miliardi il valore, attenzione, degli immobili cedibili. Intanto il premier Monti rilancia la lotta all'evasione, priorità assoluta del governo. In prima pagina anche un commento di Alberto Rioli relativo al manifesto per la cultura che lanciò il Sole 24 Ore qualche tempo fa. Il manifesto per la cultura, test alla maturità. Caro ministro, ci mandi i temi, li pubblicheremo, dice Alberto Rioli. Corriere della Sera, Berlino, le condizioni sugli aiuti, il fondo salvataggi aperto solo a chi accetta nuove e più severe regole di bilancio, quindi questa sarebbe già la controproposta di Merkel alla proposta di Monti. Regole ancora più severe sui bilanci, in cambio appunto della possibilità di un intervento sui titoli di Stato da parte dell'IFSF. A centropagina domina una grande foto di Breivik, l'autore della strage di Oslo, quello che uccise 77 ragazzi, lo sapete bene. Sono arrivate le richieste dell'accusa. E la richiesta dell'accusa è malato, cure a vita, niente carcere. Questo per quanto riguarda il Corriere della Sera, che presenta anche, interessante, un'intervista di Massimo Mucchetti a Francesco Gaetano Caltagirone. L'Italia rischia di perdere anche Eni ed Enel, dice, e altre grandi aziende pubbliche, sono aziende da difendere, dice Caltagirone. La stampa sceglieva Omero e Goethe, sulla questione di Germania-Grecia, il quarto di finale dell'Europeo, il Corriere della Sera fa firmare il pezzo a Pierluigi Battista e mette insieme Hegel e Omero. Quindi, come vedete, insomma, di questo tema si continua a parlare. C'è un bel retroscena di Francesco Verderami, interessante, sul PDL in fibrillazione, e parla di vero e proprio assedio al Presidente del Consiglio. Apertura sulla trattativa Stato-mafia, tanto per la Repubblica quanto per il Fatto Quotidiano, così come per il Giornale, naturalmente. Tutti con accenti diversi. Stato, mafia, Napolitano non ci sta, scrive Repubblica. Campagna di sospetti fondata sul nulla. Io trasparente e sereno. Analisi di Carlo Galli. Chi gioca allo sfascio, il titolo. E retroscena di Claudio Tito. Il bersaglio è il Quirinale. A centropagina, grande titolo su Fiat condannata. Assuma 145 operai Fiom. E molto esplicito invece il titolo sull'Europa, su Bruxelles, Monti alla Merkel, svolta europea o il mio governo è a rischio. Vediamo gli altri giornali sul tema della trattativa, il Fatto Quotidiano, che è quello che sta facendo la campagna più intensa da questo lato. Napolitano invoca il bavaglio e attacca, aperte virgolette, alcuni giornali, chiuse virgolette. Questo è il titolo di apertura. Dopo le rivelazioni del Fatto sulle telefonate a Mancino, il capo dello Stato tuona, campagna di insinuazioni e sospetti fondati sul nulla, e sulle intercettazioni dice si è perso troppo tempo. E poi nei due verbali davanti ai PM il consigliere D'Ambrosio, che è il consigliere del Quirinale, si contraddice sulla sua conoscenza della trattativa Stato-mafia. Il Giornale, Napolitano ha paura, bufera sul Colle, trattativa Stato-mafia, spuntano le telefonate del presidente che non ci sta, le intercettazioni, un problema.

Per l'Italia in controluce torneremo nuovamente alle 13.30 su Radio 24. Vi ricordo che questa, come tutte le puntate di questo programma, sono scaricabili in podcast su radio24.it, ascoltabili anche dal sito. Abbiamo la pagina e il gruppo di Facebook e siamo anche naturalmente su Twitter. La nostra mail è controluce@radio24.it. Sono le 6:41 minuti e 30 secondi. Dunque, veniamo alla, se vogliamo, all'agenda di oggi, agenda che prevede il famoso vertice di Roma, tra l'altro anticipato al primo pomeriggio, perché Merkel poi volerà a vedersi la partita tra Grecia e Germania. Dunque, facciamo il punto con la nostra Valeria De Rosa. Valeria, buongiorno. Buongiorno a te, Simone, ai nostri ascoltatori. Difficile fare il punto in questi giorni, perché ne succedono veramente di ogni, di tutti i colori, e in ogni ora c'è qualcosa di diverso da aggiornare per raccontare un po' la situazione, che comunque in Europa è piuttosto critica. Allora, dicevamo, oggi questo vertice a 4 a Roma, Monti, Merkel, Hollande e Rajoy. Diciamo che sul tavolo ci sono tutti quelli che saranno gli argomenti del prossimo vertice europeo, quello della prossima settimana, un vertice davvero decisivo, perché se non dovesse andar bene, a quel punto davvero i mercati si potrebbero scatenare. Diciamo che c'è in ballo la stabilità, se non il futuro, dell'eurozona e del vecchio continente. Quindi si cerca di spianare la strada a questo accordo. Sul tavolo, dicevamo, moltissimi temi: l'impulso, il nuovo impulso al mercato unico, lo scorporo degli investimenti produttivi dal calcolo del deficit, i project bond, l'aumento di capitale della BEI, della Banca Europea per gli investimenti, che permetterebbe di finanziare i progetti, gli euro bond e ovviamente a corollario di tutto questo l'ipotesi proprio dello stesso Monti dell'utilizzo del fondo salva stati per acquistare titoli di Stato dei paesi europei e tenere quindi sotto controllo lo spread. Questo per alleggerire, come dire, il peso sui paesi che stanno facendo riforme, che stanno facendo riforme, perché le riforme hanno dei tempi, come dire, più lunghi rispetto a quelle dei mercati. Ecco, Valeria, molto brevemente, Monti con Merkel è stato, a quanto pare, molto chiaro. È stato chiarissimo, perché qui c'è in ballo sicuramente la tenuta del suo governo per l'Italia, perché i partiti gli chiedono di tornare dal vertice europeo della prossima settimana con qualcosa di concreto. Ma se il governo non dovesse tenere, non sarebbe solo un problema per l'Italia, sarebbe un problema per l'Europa tutta, perché a quel punto sarebbe molto più difficile far sì che il governo successivo avesse un'idea europea molto più convinta. Quindi la strada dell'integrazione europea, integrazione politica e fiscale, che non chiede solo la Merkel dal punto di vista fiscale, ma chiede anche a questo punto il Fondo Monetario Internazionale, che ieri sera è intervenuto molto duramente, sarebbe molto più complicata. Grazie alla nostra Valeria De Rosa, come sempre, per questo punto, ripetiamo, sempre e anche sempre piuttosto complicato. E buona giornata. Noi andiamo a sentire cosa succede su strade e autostrade e poi l'intervista al ministro Clini. Prima edizione. Veniamo dunque al vertice Rio più 20, quello sui cambiamenti climatici. Marco Magrini, inviato del Sole 24 Ore a Rio de Janeiro, ha intervistato per noi il ministro dell'Ambiente Corrado Clini per fare proprio un punto sui lavori. Sentiamo. Quello che potevamo aspettarci da questo vertice è stato ottenuto, perché abbiamo un documento finale che identifica la green economy come quadro di riferimento per la crescita economica del futuro, identifica alcuni obiettivi per lo sviluppo sostenibile che sono comuni a tutti i paesi. E questa è una novità rispetto al passato, perché nel passato invece, non solo al vertice di Rio del 92, ma per esempio anche all'ultimo fallito di Copenaghen sul clima, la gli obiettivi erano soprattutto riferiti ai paesi sviluppati, mentre sostanzialmente non c'erano previsioni di impegni e di obiettivi per gli altri paesi. Ieri, intervenendo all'assemblea plenaria, il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon si è comunque raccomandato con i paesi di mettere in pratica anche rapidamente i contenuti, seppur generali, dell'accordo. Ecco, ma non crede che tutto sia lasciato troppo alla iniziativa dei singoli governi? Direi di no. Da un lato, nell'ambito delle Nazioni Unite, a cominciare dalla prossima Assemblea Generale di settembre, tutti i paesi insieme cominceranno a lavorare sulle linee guida per la green economy e sugli indicatori che integrano la valutazione del prodotto interno lordo di ogni paese. Dall'altro lato, ci sono economie guida del pianeta che già stanno facendo, perché per esempio il 12° piano quinquennale della Cina rappresenta già un pezzo molto corposo di una strategia globale per la green economy, e quando si muovono gli investimenti per l'economia cinese questi sono sicuramente capaci di avere effetti a livello globale. Sono le 6:48 minuti e 16 secondi. Prima di chiudere vogliamo fare un punto su quello che è successo e che sta succedendo questa notte in Afghanistan, dove c'è stato un assalto dei talebani ad un albergo. Dunque, Anna Marino, buongiorno. Sì, buongiorno. Il bilancio continua a cambiare perché appunto è ancora in corso da 8 ore l'attacco di stanotte dei talebani appunto in terra afghana a Kabul. Ha un bilancio appunto di 5 morti e si parla di 40 ostaggi, per lo più turisti poi liberati. Stanotte infatti i combattenti talebani, pesantemente armati con mitragliatori, bombe e lanciarazzi, hanno attaccato un hotel in un sobborgo di Kabul nella zona del lago Karga, che è una meta turistica, e hanno innescato una battaglia in questo hotel Spots Mai contro le forze di sicurezza. Subito hanno rivendicato i talebani l'attacco, affermando che i ricchi afghani e stranieri usano hotel per parti selvaggi, e poi hanno appunto nel venerdì di preghiera hanno catturato diversi ostaggi, tra i quali anche donne e bambini. Hanno fatto i primi morti nell'operazione. Una forza speciale della polizia afghana ha liberato appunto gli ostaggi. Prima si parlava solo di 18 persone, e in quel momento nell'albergo era presente, secondo la polizia, un gruppo di civili che avevano appena concluso un picnic o partecipavano a una festa di matrimonio. Comunque, in una rivendicazione via email, il portavoce dei talebani ha assicurato che a essere attaccato è stato un gruppo di stranieri militari e diplomatici invitati da qualche alto responsabile amministrativo di Kabul. Diciamo appunto, le informazioni sono ancora contestate e l'attacco ancora in corso. Grazie dunque ad Anna Marino, grazie come sempre a Peter Bescapè in regia, Diego Rovelli in redazione. Si chiude qua prima edizione, chiude così per quanto mi riguarda anche per quest'anno. La settimana prossima ci sarà Anna Migliorati e poi insomma chiuderemo, naturalmente si torna, si spera, a settembre. Buona giornata e ci sentiamo tra poco con il giornale radio.